nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia. Domenica 24 novembre, il sole in regione è sorto alle 7.20 e tramonterà alle 16.28. Martedì c'è luna nuova e siete all'ascolto di Vita nei Campi. Buongiorno da Armando Mucchino. Temibilissima sotto il profilo sanitario, la peste suina africana sta facendo sentire i primi contraccolpi anche sul versante economico. La grande richiesta di carne di maiale che arriva dalla Cina, dove sono stati abbattuti per la peste 200 milioni di capi, sta sconvolgendo il mercato e presto la filiera non riuscirà più a garantire i prezzi. Questo è il tema del servizio di apertura, cui seguirà per la rubrica del bio l'importanza di avere sempre più alberi per mitigare i cambiamenti climatici. Per la storia del vino avremo la prima puntata dedicata all'antica Roma, a seguire nello spazio che dedichiamo alle piante nostrane il velenosissimo veratro, troppo spesso confuso con la genziana maggiore. Dell'apertura del periodo di macellazione del maiale a Sant'Andrè, il 30 novembre come vuole il proverbio, parleremo nella rubrica dedicata, mentre è natalizia una ricetta dei tanti tipi di biscotti che si preparano anche in regione, qualcuno anche da appendere all'albero. Andamento dei mercati, previsioni del tempo per la settimana entrante, con una breve nota di climatologia locale e il proverbio friulano della settimana, chiudono la puntata. Nonostante la temibilissima infezione della peste suina africana sia ancora ferma tra Slovacchia, Serbia e Polonia, quindi lontana dai nostri confini, anche in Italia, anche in Friuli Venezia Giulia, si cominciano a sentire i primi contraccolpi sulla filiera suinicola, soprattutto sulla trasformazione delle carni di maiale. Ci sono già dei problemi. Ne parliamo con Cristian Vida, che è vicepresidente vicario di Confindustria Udine e trasformatore della filiera suinicola. Il problema nasce dalla Cina, perché la Cina è stata investita lo scorso anno da un'epidemia di peste suina africana. L'unica soluzione che c'è è quella di dover abbattere gli animali che sono stati infettati e gli animali che si trovano vicino. Quanti ne hanno abbattuti in Cina e quali contraccolpi? La Cina produce circa il 50% dei suini come numero di capi al mondo. Il che vuol dire che su un patrimonio suinicolo 2018 circa 1 miliardo di suini, 500 milioni sono fatti in Cina. Di questi 500 milioni stanno arrivando al 40% di abbattimenti obbligati dalla peste suina africana. Quindi parliamo di circa 200 milioni di animali. L'abbattimento poi cosa comporta? Comporta fondamentalmente una richiesta di carne suina all'estero, perché loro devono compensare quella che è la prima fonte proteica per il cinese. E i prezzi sono andati ovviamente alle stelle. I prezzi hanno avuto una prima leggera curva alla fine dell'anno scorso, quando questa cosa si stava iniziando a manifestare e la Cina improvvisamente si è resa conto del problema, si è resa conto che non poteva soddisfare internamente quella che è la loro domanda e ha deciso di aprire a tutti i paesi del mondo, produttori e allevatori, la possibilità dell'importazione, quindi di portarli là la carne che in questo caso non è fresca, viene congelata direttamente all'origine e poi viene portata là per questioni di trasporto. E la carne di suino inizia a scarseggiare anche sui nostri mercati. E la carne di suino ha cominciato a scarseggiare nel mondo, perché noi stiamo parlando di dover sopportare un impatto del meno 20% della richiesta mondiale di carne suina, però senza prepararsi, perché il maiale non è che da oggi a domani mattina cresce, il maiale ha bisogno di un ciclo molto lungo. Situazione ora in Friuli Venezia Giulia, lei diceva che nel suo stabilimento ha già difficoltà di reperimento di carne suina. Certo, ormai sono mesi in cui siamo in difficoltà, anche perché è successa un'altra cosa nel frattempo, che è stata l'estate molto calda. Un'estate molto calda non aiuta nell'accrescimento del suino. Allevatori che hanno sofferto moltissimo nella prima parte dell'anno con dei prezzi assolutamente non remunerativi e quindi che non gli hanno consentito neanche di sostenere dei ricambi e degli aumenti di quantità, e che oggi come oggi si trovano con grosse difficoltà a dover superare le enormi richieste che ci sono. Qual è l'andamento del prezzo e soprattutto non basta neanche un buon prezzo a far superare la crisi della mancanza di carne suina? Sì, la mancanza è mancanza, non c'entra a fare, ma quello che sta incidendo soprattutto è appunto il costo di questa carne, perché la carne è un po' all'asta. I cinesi hanno accettato di entrare in quest'asta qua e di conseguenza aumenta in maniera vertiginosa. Solo negli ultimi 3 mesi gran parte dei tagli con cui si fanno i nostri prodotti principali, che vogliono dire i salami, le pancette, le soppresse e quant'altro, sono aumentate di oltre il 50%. La massaia al supermarket si è già accorta? Allora, massaia ancora non si sta accorgendo, diciamo che tutta la filiera sta facendo un grandissimo sforzo, la trasformazione, la distribuzione in particolare, per cercare di tenere, di far passare un Natale che sia in linea con quelli dei Natali precedenti, però nella realtà a breve se ne dovrà accorgere, perché qui ne va del rischio di chiusura delle aziende. Noi non siamo un settore dove le marginalità sono alte, anzi, come trasformatori le marginalità sono sempre state molto compresse, siamo in molti, lavoriamo da sempre, e questo non ci ha consentito di sopperire gli sbalzi che normalmente ci sono nel nostro mercato, ma mai di questa intensità e soprattutto mai di questa lunghezza come tempi. Ma i produttori non dovrebbero essere avvantaggiati da questa grande richiesta di carne suina? A oggi l'allevatore ha tornato a rivedere un prezzo che sia remunerativo finalmente. Sicuramente i macellatori riescono, quelli in particolare che hanno le autorizzazioni di esportazione verso la Cina, riescono a marginare in maniera migliore, ma il problema di base è appunto la mancanza della carne. Si intitola Solo alberi, il contributo di oggi di Cristina Micheloni per la rubrica del bio. Adesso capirete perché. Alberi non è poco, infatti in tempo di cambiamento climatico e nella necessità di fare qualcosa, nell'urgenza di fare qualcosa, le evidenze scientifiche ci confortano e confermano che quello che abbiamo fatto sinora nel biologico è la strada giusta. Infatti abbiamo sempre speso molte energie per aumentare la sostanza organica nei suoli e piantare alberi. Molti stanno giustamente riproponendo questo tema del piantare alberi, come gli amici di Pianta il Futuro, anche qui in regione, che sono la maniera più efficiente per fissare CO2, quindi continuiamo a piantare alberi. Pensando a questa cosa ho deciso di fare un po' la somma di quanti alberi negli ultimi 4 anni, come Aia, Priolinizia Giulia, abbiamo messo a dimora in diversi posti in regione, e mi risultano 8.000 alberi a Muzzana del Turniano, 1.000.000 più o meno a Dignano, 3.500 in diverse aziende agricole e altri 3.000 che verranno messe a dimora nel 2020, tutto con il supporto di Pur Projet e di diverse aziende che investono proprio nell'ambiente e nella fissazione della CO2. Quindi in totale 15.500 alberi da parte di una piccola associazione come noi siamo. Poi leggo, mi cade l'occhio, e leggo che nel principale quotidiano nazionale si è impegnato a piantare 365 alberi nell'anno. Mi chiedo se serva all'ambiente o più che altro al marketing, onestamente. Ma già che ci siamo, chi è interessato a mettere a dimora degli alberi nella propria azienda, sui propri terreni, ce lo faccia sapere. Però più di 365, numeri inferiori, non riusciamo a darvi un sostegno. Una volta c'era addirittura a scuola la giornata della festa degli alberi. Perché si è persa questa cultura? Ma un po' perché probabilmente i comuni hanno ritenuto che non fosse più così interessante, urgente, un po' perché ci sono meno bambini ma forse è il momento di riportarlo in auge. Sinceramente io preferirei più che dire un bambino un albero, che poi gli mette anche il nome, diventa un rapporto un pochetto anche morboso, perché poi se l'albero si ammala, muore, ci resta pure male. Costruiamo un bosco, il bosco dei bambini del paese. Questo mi sembra la cosa più bella. Servono addirittura 4 puntate della rubrica del vino che ci cura il professor Roberto Zironi, che insegna enologia all'Università di Udine, per parlare del vino nell'antica Roma. Perché 4 puntate? Beh, se facciamo i conti, Roma viene fondata nel 753 a.C., l'impero romano di Occidente cade nel 476 d.C., fanno giusto 1220 anni. E quindi capite che l'impronta data dai romani alla vitivinicoltura mondiale è sicuramente significativa. I romani, quando arrivano a Roma, diciamo, fondano Roma, si trovano in pieno territorio etrusco. A nord si estende l'Etruria, che arriva fino a limitare sud della pianura padana, al sud si estende la Magna Grecia, le Notria Tellis. Il nome è tutto un programma. Chiaramente i romani che cosa fanno? Prendono da queste due popolazioni la cultura del vino e inizialmente la cultura viticola del vino. Qual è la cultura viticola della Magna Grecia, quindi della zona sud dell'Italia. È una cultura viticola che prevede una coltivazione della pianta a livelli bassi, viene chiamato effettivamente alberello, eventualmente sorretta da un tutore morto, cioè un palo di legno o una canna. In questo caso ogni ceppo produce poca uva, quindi un'uva molto concentrata, e quest'uva matura vicino al terreno. Altra cosa molto interessante è come viene coltivata e come viene propagata la vite. Una talea, cioè una asta, diciamo così, di vite radicata ed eventualmente diffusa nell'ambito del vigneto con una propaggine, cioè un tralcio della vite stessa viene praticamente interrato e quindi permette, diciamo così, la produzione di un'ulteriore pianta. Nel nord invece abbiamo delle colture più espanse, l'uva deve stare più distante dal terreno per effetto, diciamo, dei possibili marciumi e quindi abbiamo un tutore vivo che è una pianta o naturale o piantata all'uopo, dove la vite praticamente si aggrappa e riesce quindi a elevarsi dal terreno. Da non confondere con la genziana maggiore c'è il veratro, pianta comunissima anche da noi, ma terribilmente velenosa, come ci dice Antonino Danelutto. Nella puntata precedente si è parlato della genziana maggiore e si era accennato al rischio di confonderla con il velenoso veratro, detto anche ellebro bianco. In genere, durante il riposo vegetativo delle piante, che è il più indicato per l'approvvigionamento delle loro parti sotterranee, risulta più difficile il riconoscimento di qualsiasi specie che ci interessi, ormai sfiorita ed avvizzita. Nel nostro caso non è semplice distinguere la parte aerea della genziana maggiore da quella del veratro, assai simili tra di loro e che possono crescere l'una accanto all'altro. Il più importante carattere distintivo valido anche quando la pianta è secca è costituito dalla posizione delle foglie lungo il fusto. Nella genziana esse sono opposte, cioè una di fronte all'altra, mentre nel veratro sono alterne. Il veratro comune, nome scientifico Veratrum lobelianum, in friulano fra i tanti cimiriche, hierbe dal gomit, lepro blanc, è una pianta erbacea perenne con rizoma breve e carnoso, a fusto semplice, eretto, alto anche oltre un metro. Le foglie sono alterne, grandi, ovali o ellittiche, di sotto rivestite da una fitta peluria. I numerosi fiori giallo-verdastri e dall'odore poco gradevole formano, da giugno ad agosto, un'ampia pannocchia terminale. Il veratro è pianta nitrofila, in quanto cresce bene su terreni ricchi di sostanze azotate, predilige prati umidi, pascoli e radure di media e alta montagna. In passato, rispetto ad oggi, era molto meno diffuso nei pascoli, poiché veniva regolarmente estirpato assieme ad altre piante infestanti, allo scopo di rendere più sano ed appetibile il foraggio per il bestiame. Tutta la pianta è velenosa, in particolare il rizoma, che è ricco di diversi alcaloidi molto tossici. Per questo motivo l'impiego terapeutico è escluso dall'uso familiare, in quanto già a piccolissime dosi eccita il sistema nervoso e poi lo paralizza. Un tempo era utilizzato con grandi rischi come emetico, violento purgante e ipotensivo. Numerosi sono i casi di intossicazione, anche con esito letale, registrati dalla letteratura medica e dovuti allo scambio del rizoma della genziana con quello del veratro per fare gli amari. Nei casi più gravi il polso rallenta e si fa sempre più debole, quindi sopraggiunge il coma ed infine si ha paralisi respiratoria. La morte avviene di regola entro le 12 ore. Sant'André è il purcit sulla Brea, è il detto popolare che faceva iniziare la stagione della macellazione del maiale. Vediamo il perché con Adriano Del Fabbro che ci cura questa rubrica. In tutto il Friuli la data canonica per l'inizio del rito delle macellazioni del purcit è quella che coincide con la ricorrenza di Sant'Andrea, il 30 di novembre. La scelta non è casuale. In quel periodo infatti inizia la stagione fredda, dove è più facile conservare la carne anche in assenza di elettrodomestici dedicati. Terminate le semine dei cereali invernali, il contadino, purcitar compreso, ha meno impegni in campagna e il maiale per quella stagione ha già raggiunto nella maggior parte dei casi il peso giusto per la macellazione. Senza contare che molto probabilmente la famiglia tradizionale aveva già svuotato il camarin, esaurendo la gran parte degli insaccati preparati con il suino allevato durante l'annata precedente. Del resto, diversamente da Sant'Antonio Abate, patrono dei Norcini, che si festeggia il 17 gennaio, Sant'Andrea Apostolo, che era un fratello di Simon Pietro, non ha alcun legame con gli animali e l'Italia, essendo nato in Galilea, come ricordano i Vangeli, è morto martire in Grecia a Patrasso. Chi l'ha vissuto ricorda il giorno della macellazione del maiale di casa come un'occasione di festa, di abbondanza e unica occasione in cui i ragazzi potevano evitare di andare a scuola. I maestri chiudevano un occhio sull'assenza anche perché un anello di salsiccia arrivava pure a loro, era una forma di giustificazione del tempo. I piccoli di casa potevano assistere a tutte le fasi della macellazione. La vita, trasformata in cibo, nasceva dalla morte, ma i ragazzi vi potevano partecipare senza riserve. L'evento della macellazione aveva la sua preparazione, minimo il giorno prima. Terminato il lavoro in una famiglia, il norcino lavava i suoi attrezzi, di cui era molto geloso, in acqua e soda, e li portava direttamente nella famiglia in cui avrebbe operato il giorno dopo. In quel momento si prendevano gli accordi per gli orari, le lavorazioni da fare, perché ogni famiglia aveva le proprie preferenze. Si raccomandava di mantenere l'animale a digiuno, altrimenti i materiali in trasformazione nello stomaco erano da rimuovere in modo poco piacevole. Si controllava la stanza di macellazione, che doveva essere pulita e disinfettata, e il tavolaccio per la lavorazione delle carni. Alcuni giorni prima erano già state date le disposizioni per l'acquisto delle budella da utilizzare per i diversi insaccati, dopo che il norcino aveva effettuato con stima a occhio del peso del maiale o degli animali, se erano più di uno. Tutto il necessario, sale e spezie comprese, pepe, cannella, chiodi di garofano, coriandolo, noce moscata, si acquistava in drogheria o nel negozio alimentare del paese. Il pagamento della prestazione era effettuato in contanti, una cifra fissa per ogni animale macellato. Tra le tante tradizioni legate al Natale c'è anche quella dei biscotti, in decine e decine di varianti locali, come ci dice Roberto Zotar. Il Natale, nelle tradizioni mitteleuropee, ha un profumo non solo di aghi di pino, ma soprattutto di chiodi di garofano, cannella, cardamomo, zenzero, anice stellato, vaniglia, bucce di arance e mandarini. Odori, aromi e sapori non sono soltanto un supporto per la preparazione dei cibi, ma anche un'evocazione che suscita ricordi e diviene cibo dell'anima, in particolar modo quando il cibo e soprattutto la cucina mantengono una identità e rivelano inconsci personali e collettivi particolarmente familiari. L'aroma e la memoria sono strettamente legati e un odore può improvvisamente evocare un momento dimenticato da lungo tempo. Anche le spezie, quindi, possono avere un ruolo culturale nell'identificazione le tradizioni, e questo è particolarmente vero per il Natale. Tra tutti i cibi, i dolci evocano suggestivi ricordi perché legati a feste e a particolari momenti della vita. Nelle famiglie, durante la prima settimana di Avvento, si infornano i biscotti natalizi dagli ingredienti speziati e profumati. Qualche famiglia arriva a produrne anche decine di varietà diverse, e questi sono anche carini da vedere perché ottenuti con tagliapasta di svariate fogge, anche di simpatici omini o stelle di frolla, da appendere all'albero di Natale insieme a mandarini infiocchettati. Classici del periodo sono le mezzelune di mandorle e vaniglia, i cosiddetti Vanillekipferln o i curabiè triestini, gli occhi di bue o Spitzbuben, gli ussari, sempre con marmellata, i Nussmakaronen alle nocciole, ma anche i panpepati speziati, i cosiddetti Lebkuchen o Pfefferkuchen, preparati con marzapane, miele e spezie, ricoperti di cioccolato o decorati con glasse colorate a raffigurare San Nicolò con la mitria. Questi dolciumi emanano intensi profumi e man mano che vengono prodotti sono riposti su carta oleata in scatole di latta per conservarli fino alla settimana di Natale, quando verranno appesi all'albero o disposti ordinatamente su vassoi, profumeranno la tavola natalizia. Per realizzare delle stelle alla cannella, le famose Zimtsterne, montate tre albumi a neve con 250 grammi di zucchero a velo e tenete da parte in frigo 80 grammi di questo composto. Al resto aggiungete 300 grammi di mandorle tritate fini, 2 cucchiai di cannella, impastate e aggiungete ancora 100 grammi di mandorle tritate grossolanamente. Stendete l'impasto allo spessore di un centimetro, ritagliate i biscotti con una formina a stella e metteteli su una teglia con carta forno. Spennellate la superficie con albume zuccherato tenuto da parte, lasciate asciugare una notte e poi cuocete in forno a 160 gradi per 10 minuti. La glassa deve rimanere bianchissima. Buon appetito! E E con Amos D'Antoni ora l'andamento dei mercati agricoli. Andamento diversificato venerdì scorso nelle contrattazioni cerealicole della Camera di Commercio di Udine, dove il mais con umidità 14% è stato quotato tra 15,70 e 15,90 euro al quintale IVA esclusa, la soia tra 33,10 e 33,40, l'orzo con peso specifico 60,63 tra 15,50 e 16 euro, il frumento tra 17,90 e 18,20. Rispetto ad un anno fa il mais è diminuito di 90 centesimi il quintale e la soia è aumentata di 20 centesimi. Mercato fiacco nel comparto di bovino e macello, con le vacche fine carriera di prima qualità pagate a peso morto tra 2,40 e 2,90 euro al chilo IVA esclusa, quelle di seconda tra 1,80 e 2,40. Contrattazioni sofferenti anche in quello dei vitelli da ristallo, con i blubelga maschi quotati tra 5,80 e 6,20 euro al chilo IVA compresa, i pezzati rossi tra 4,20 e 4,60, i frisoni tra 1,50 e 1,80, i bruni tra 1,50 e 1,70. Toni con tendenze progressive invece nel comparto suinicolo, con il valore della tonzoli di 30 kg, franco partenza, fissato a 2,71 euro al chilo IVA esclusa, i grassi da macello in aumento a 1,63. Stabilità nel settore dei foraggi, dove il fieno Mazzengo di pianura e l'erba medica vengono pagati in media tra 19,60 e 20,20 euro al quintale IVA esclusa, mentre la quotazione della paglia di cereali pressata oscilla tra 12,50 e 13 euro, sempre IVA esclusa. Mentre il latte naturale di vacca Franco Stalla, compresa refrigerazione, è quotato dalla Camera di Commercio di Udine a 38,50 centesimi il litro più premi qualità e IVA. Infine, cenni di pesantezza nel mercato avicunicolo, con i poli a terra pagati tra 0,95 e 0,97 euro al chilo, i tacchini maschi tra 1,56 e 1,58, le faraone tra 2,30 e 2,34, le anatre tra 2,45 e 2,49, le oche tra 2,90 e 5,10, i conigli oltre 2,5 kg quotati dal CUN di Verona tra 2,65 e 2,71, mentre il prezzo delle uova oltre i 73 grammi è di 13,80 centesimi il pezzo. Con il previsore dell'ARPA Osmer Arturo Puccillo diamo un'occhiata al meteo per la settimana entrante più un breve contributo di climatologia locale. Queste prime due decadi di novembre sono state l'insegna di un tempo radicalmente diverso da ottobre. Numerosi fronti, spesso intensi, hanno portato una varietà di fenomeni sulla regione. Neve abbondante in quota, piogge intense e frequenti incursioni del mare, con episodi estremi di acqua alta. Ricordiamo l'acqua alta eccezionale del 12-6 a grado, con 181 cm sul livello di riferimento, e l'acqua del mare a invadere gran parte della cittadina lagunare, con picchi superiori al mezzo metro sul livello strada. Acqua alta interessa anche Trieste e Lignano, più colpita da fenomeni di mareggiata. Ricordiamo a metà mese, il 15, un'altra forte perturbazione atlantica, che scarica oltre 250 mm di pioggia in 24 ore, a Tolmezzo e sulle prealpi carniche. Stessi valori di pioggia accumulata più o meno sulle stesse zone si ripetono il 17, stavolta con temporali e piogge a tre cifre anche in pianura. Il fronte principale ha accompagnato da 20 fino a 150 km orari in quota. L'ultimo episodio da segnalare è del 19, quando un ennesimo fronte sciroccale investe la fascia da Lignano a Udine, dove cadono tra 130 e 150 mm di pioggia. Da segnalare la neve improvvisa oltre i 500 metri sul Tarvisiano. In sostanza, questo novembre lascia 1000 mm di pioggia a Tolmezzo, 420 a Udine e 350 a Lignano. Mai così tanti in questo periodo dal 1960. Per finire, il giorno 20 il mare presenta una temperatura a Trieste di 17,1 gradi centigradi. Un altro record. Venendo ai prossimi giorni, domani e martedì saranno giornate tranquille, lunedì più soleggiata, martedì con aumento della nuvolosità. Di giorno farà anche piuttosto caldo, specie lunedì, con massime non lontane dai 20 gradi in pianura e borra moderata sulla costa. Tra mercoledì e giovedì mattina dovrebbe passare un altro fronte sciroccale, con pioggi intense ad est e qualche temporale. La quota neve rimane confinata oltre 1800 metri. Venerdì e sabato il tempo sembrerebbe migliore, con graduale diminuzione delle temperature, che però rimarranno ancora piuttosto miti. Il prossimo fine settimana potrebbe affacciarsi una depressione atlantica, più fredda, ma questo scenario è ancora aleatorio. Come sempre quindi vi invitiamo a seguire gli aggiornamenti quotidiani delle previsioni di Osmer ARPA, sulla RAI regionale, su internet, sulla telefonia mobile e sui vari social media. Alla prossima! Termina qui la puntata. Anche oggi vogliamo lasciarvi con un proverbio friulano: cui calol la occhie fine la compri a Sante Caterine, ovvero chi vuole un'oca prelibata la compri i giorni di Santa Caterina, il 25 novembre. Coordinamento tecnico di Ugo Nicoletti, il nostro indirizzo mail evitaneicampi@rai.it. Potete trovarci su Facebook e sul sito della TGR del Friuli Venezia Giulia. Armando Mucchino e tutta la redazione vi ringraziano e danno appuntamento a domenica prossima. Avete ascoltato?